Clandestini, un'ondata di sbarchi verso l'Italia, Maroni, rischio emergenza umanitaria. In Egitto, il giorno dopo il deludente discorso di Mubarak, l'esercito assicura il passaggio dei poteri. PDL in piazza a Milano a sostegno di Berlusconi contro i PM. Oggi il premier incontra Napolitano. Nokia e Microsoft insieme sul mercato degli smartphone, ma il mercato boccia la mancanza di dettagli dell'operazione. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. In apertura parliamo della situazione che si sta creando nel canale di Sicilia con le ripercussioni della crisi nordafricana e l'aumento degli sbarchi. Più di 1000 immigrati sono arrivati dall'inizio della settimana a Lampedusa. Oggi un'altra motovedetta con a bordo 181 persone, tanto che il ministro Maroni parla di rischio emergenza umanitaria. Ma cominciamo dalla cronaca di queste ore a Lampedusa. Sono bastate 48 ore, a Lampedusa sono sbarcati 1200, di cui 852 nel corso dell'ultima notte del mattino di oggi, e i numeri sono destinati ad aumentare, visto che così annunciano gli stessi migranti fuggiti dalla Tunisia. L'arrivo di barconi di immigrati nell'isola siciliana ha assunto proporzioni ingestibili e sta creando uno stato di emergenza, dal momento che il Ministero dell'Interno ha confermato la direttiva di non aprire agli extracomunitari le porte del centro di permanenza temporanea, che pure resta funzionante. Si vuole evitare che la riapertura del centro, ha spiegato il sindaco Bernardino De Rubeis, venga interpretata come un invito per altri a prendere il mare. Gli ultimi arrivi all'alba di oggi: 181 immigrati sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera, mentre un'altra imbarcazione con 70 persone a bordo è stata segnalata al largo e nelle prossime ore sarà agganciata e scortata fino al molo di Lampedusa. L'orientamento del governo non cambia: al più presto quasi tutti gli immigrati presenti sull'isola dovrebbero essere trasferiti a Porto Empedocle per poi essere smistati nei vari centri di accoglienza. Ma lo stesso ministro Maroni si dice molto preoccupato: se il flusso non verrà fermato c'è il rischio di una vera e propria emergenza umanitaria. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come sentivamo nel servizio, le dichiarazioni del ministro Maroni, che parla di una possibile emergenza umanitaria, il rischio di un'emergenza umanitaria. Sentiamolo poco fa a Venezia, al microfono di Silva Venetto. Come temevo, la grave crisi sociale e politica di quei paesi, in particolare in Tunisia e in Egitto, sta portando una fuga di massa da quei paesi, in particolare dalla Tunisia, verso l'Italia. C'è il rischio di una vera e propria emergenza umanitaria. Stanno arrivando centinaia di persone sulle coste italiane in fuga appunto da quei paesi. La prossima settimana, giovedì, ho già convocato un comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, a cui ho invitato anche il Ministero degli Esteri, per decidere le misure più idonee, e ho chiesto anche naturalmente il coinvolgimento della Commissione europea, perché gli strumenti necessari per porre rimedio a questa situazione non possono essere messi in campo solo dall'Italia. E allora andiamo in Egitto, perché come dicevamo questa situazione è legata alla crisi nordafricana. Vediamo oggi qual è la situazione all'indomani del deludente discorso del presidente Mubarak, che non ha annunciato le dimissioni, anche se ha parlato di un passaggio di consegne al vice Suleiman, al vicepresidente. E proprio su questo è intervenuto oggi l'esercito con una nota parlando di una garanzia del passaggio dei poteri. Andiamo al Cairo per la cronaca di questa giornata con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri, buongiorno. Buongiorno a voi. Abbiamo questo Mubarak che ormai è un po' asserragliato in questo palazzo presidenziale di Heliopolis, protetto dai fedeli della Guardia Repubblicana. Insomma, Mubarak resta in sella con il sostegno decisivo delle forze armate. L'esercito si è fatto garante delle sue promesse di riforma e del trasferimento dei poteri al vice Omar Suleiman, e chiede anche alla popolazione di tornare a casa e fermare la rivolta. Sarà la fine di questa rivoluzione egiziana? Forse, ma c'è da dubitare che la crisi sia risolta soltanto con un pronunciamento dei militari che lascia in fondo le cose come stanno. Grazie Alberto Negri per ora, e naturalmente torneremo a sentire gli sviluppi della situazione dal Cairo, dalla tua viva voce. Adesso però ci spostiamo sullo scenario internazionale per vedere quali sono le reazioni delle cancellerie occidentali alla situazione che si sta determinando. Cominciamo dagli Stati Uniti. Le dimissioni di Mubarak ieri sembravano scontate e tutte le cancellerie si preparavano ad affrontare il dopo Mubarak, e invece niente. Gli Stati Uniti allora, nell'imbarazzo di scegliere tra un vecchio alleato e la piazza, hanno optato per un'esortazione alla trasparenza. Il governo egiziano, si scrive in una nota della Casa Bianca, chiarisca che intende fare per realizzare le aspirazioni del popolo verso un'autentica democrazia. Gli egiziani sappiano, si aggiunge, che gli Stati Uniti saranno comunque al loro fianco. Meno perentoria è stata Parigi, che ha invocato un processo sereno di transizione politica. Più apertamente delusi invece i tedeschi. «Non è il passo avanti che ci aspettavamo», ha detto il ministro degli esteri Westerwelle. Pragmatici gli israeliani, cui preme il rispetto degli accordi di pace e una transizione ordinata. L'Arabia Saudita, invece, dove si è rifugiato l'ex presidente tunisino Ben Ali e dove presto, comunque, secondo alcuni, potrebbe arrivare anche il presidente egiziano Mubarak, bolla come inaccettabili tutte le interferenze straniere negli affari interni dell'Egitto. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E sugli sviluppi possibili della situazione e anche sul bilancio di questi 30 anni di regime Mubarak abbiamo sentito Khaled Fouad Alam, islamista, docente di sociologia del mondo musulmano all'Università di Trieste. Sentiamolo al microfono di Roberta Pellegatta. Quello che ha fatto, che è rimasto importante, è che comunque durante questi anni è rimasto un punto fermo nel dialogo con Israele, nell'interfaccia fra il resto del mondo arabo, la Palestina e Israele. C'è stata una relativa crescita economica, anche se la ricchezza non è stata distribuita molto bene, ma questo in gran parte dei paesi arabi. E poi in modo molto repressivo ha contenuto il fondamentalismo islamico che è nato lì negli anni 30 e ancora di più il terrorismo di matrice islamico ha trovato la sua elaborazione ideologica e teorica lì nell'Egitto degli anni 60 e 70 e in questo senso Mubarak in un certo senso ha giocato su degli equilibri molto precari, ecco, e ha fatto sì che comunque è stato un paese stabile che ha aiutato indirettamente una certa stabilità molto precari della relazione fra le due sponde del Mediterraneo e degli equilibri mondiali, ecco. E il punto interrogativo è che come mantenere via una real democrazia a questo equilibrio mondiale. E così dunque la situazione per quanto riguarda l'Egitto. Adesso veniamo alla politica italiana, perché ieri sera e oggi in un'intervista al Foglio nuovo sfogo del premier Berlusconi, che parla di un golpe morale nei suoi confronti, e riferimento è all'inchiesta milanese sul caso Ruby. E tra poco sentiremo anche da Palazzo di Giustizia come una parte di opinione pubblica si stia mobilitando in queste ore a favore di Berlusconi. Prima però il punto politico, oggi anche un atteso incontro tra Berlusconi e Napolitano. Andrea Viali. Sì Alessio, al centro di questo colloquio, oltre alla situazione politica, agli sviluppi dell'attualità politica, ci sarà probabilmente anche il federalismo, dopo, lo ricordiamo, la decisione del Colle di rinviare alle Camere il decreto che era stato varato la scorsa settimana dal governo, ma nel frattempo a far discutere oggi è soprattutto l'intervista di Berlusconi al Foglio, intervista nella quale, riferendosi al caso Ruby, il premier ha denunciato quello che a suo giudizio è un golpe morale di giudici e sinistra nei suoi confronti, un'inchiesta degna della Repubblica Democratica Tedesca, una posizione questa ribadita stamattina anche da Cicchitto del PDL, sentiamolo. Si trova di fronte ad un abuso della leva giudiziaria a scopi politici. Una raccolta di intercettazioni che non hanno nessun rilievo penale, che però vengono messe nel fascicolo per poter entrare nel frullatore e spargere miasmi in tutta la situazione politica, nel dibattito politico, deviandolo. Noi reagiamo a questo e nel contempo lavoriamo affinché il governo si impegni sui temi economici e sociali. Contro le parole di Berlusconi al Foglio insorgono invece tutte le opposizioni. Bersani del PD le definisce eversive, il premier ha perso la testa, commenta anche Casini dell'UDC, ma il centro-sinistra oggi attacca anche il TG1 per il lungo intervento con il quale proprio il direttore del Foglio, Ferrara, ieri sera ha preso le parti di Berlusconi. PD e Italia dei Valori hanno chiesto all'autorità per le comunicazioni di intervenire contro il telegiornale diretto da Augusto Minzolini. Per ora è tutto, Alessio. Grazie Andrea. E dicevamo, la inchiesta Ruby che scandalizza Berlusconi muove anche alcuni sostenitori in suo favore. Allora andiamo davanti a Palazzo di Giustizia a Milano, dove sta accadendo proprio questo, con Vanessa Quinto. Buongiorno, sono qui davanti al Palazzo di Giustizia a Milano, dove il PDL ha organizzato un sit-in. Lo scopo di questa mobilitazione è quella di protestare contro la richiesta di giudizio immediato che i PM milanesi hanno fatto nei confronti di Silvio Berlusconi. Ci sono centinaia di persone, bandiere del PDL, moltissimi dirigenti lombardi e sono insieme al sottosegretario Daniela Santanchè. Come mai siete qui oggi e cosa vi aspettate da questa manifestazione? Ci aspettiamo semplicemente, come sta vedendo, che la gente partecipa, il nostro popolo che ce lo chiede, perché vogliono far sentire la vicinanza al nostro Presidente del Consiglio. Siamo davanti a quello che noi abbiamo battezzato il Palazzo di Ingiustizia di Milano. Vogliamo andare sempre di più tra la gente, perché vediamo la risposta della gente, perché non vogliamo che vengano calpestate quelle libertà individuali che sono sacrosante in un paese democratico. E alle donne che manifesteranno? Mi fanno un po' tristezza, perché si rimangiano la loro storia, le loro battaglie, perché erano in piazza per urlavano il corpo mio e me lo gestisco io, oggi invece vogliono gestire il corpo degli altri. Erano in piazza per la pillola del giorno dopo, erano in piazza per l'aborto, erano in piazza per il sesso libero, oggi diventano bigotte non per credo, ma per abbattere il presidente Berlusconi, e ancora una volta si fanno strumento, mi fa grande pena. Grazie al sottosegretario Santanchè, da qui è tutto, a voi la linea. Grazie dunque anche a Vanessa Quinto, come sentivamo, dal Palazzo di Giustizia, e che sia un clima nel quale la contrapposizione politica cresce, lo si vedrà anche, come sentivamo, proprio anche nel collegamento in questo fine settimana. Sentiamo. Manifestare contro il degrado della politica e della cultura. Saranno donne, centinaia, migliaia, a dire che la loro vita è fatta di tacchi bassi e passi lunghi per fare stare insieme tutto: orgoglio, sogni, amori, vita vera. Donne che rifuggono dall'immagine femminile che sta andando oltre confine, stereotipi che si stanno attaccando pericolosamente sulla pelle delle nostre figlie giovani. L'iniziativa dal titolo «Se non ora, quando?» è di un cartello composito di donne e associazioni con la CGIL in prima fila. Per questo domenica ci saranno almeno 70 manifestazioni in 20 città, da Palermo a Bolzano, per la dignità di tutti e tutte. Questo quanto dicono gli organizzatori. Sabato mattina alle 10.30 invece, al Teatro Dal Verme di Milano, ci sarà la contromanifestazione, quella organizzata da Giuliano Ferrara, contro, dice Ferrara, i puritani. La scenografia prevede tre fili con appese 150 mutande. Lo slogan è «Siamo in mutande ma vivi». Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E chiudiamo così la pagina politica. Adesso, prima della pausa, una storia. E riguarda il liceo classico Berchet di Milano, che vuol riparare ad un torto accaduto nel passato, gravissimo, la cacciata dalla scuola degli studenti ebrei nel 1938. Sentite come accadrà dal preside Innocente Pessina. Molto semplicemente domani faremo un semplice gesto. 73 anni fa 47 studenti di origine ebraica furono cacciati da scuola a seguito di quelle vergognose leggi razziali, quelle del 38. Bene, noi li riprendiamo con un gesto simbolico, quello della consegna del nostro diploma, un facsimile naturalmente, e lo facciamo chiedendo scusa a questi studenti, alla comunità ebraica, e lo facciamo con il chiaro intento di lanciare un messaggio ai nostri studenti attuali. Il messaggio è che la non tolleranza era sbagliata 73 anni fa, è stata sbagliata nel recente passato, è sbagliata oggi, è sbagliata sempre. Quanti ne avete rintracciati? Una ventina. Non saranno naturalmente tutti presenti, perché alcuni ci hanno lasciato e quindi saranno presenti parenti, figli. Tre addirittura rientrano appositamente dagli Stati Uniti per ritirare il diploma dei loro parenti. 13 e 18 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato della nuova ondata di sbarchi di clandestini verso l'Italia, con il ministro dell'Interno Maroni che parla di un rischio emergenza umanitaria legato alla crisi nordafricana. E in Egitto, il giorno dopo il deludente discorso di Mubarak, l'esercito assicura un pacifico passaggio dei poteri, ma si è sparsa la voce e ci sono notizie di una possibile lasciata del paese da parte di Mubarak. Tra poco ci collegheremo con l'inviato del Sole 24 Ore in Egitto per capire i dettagli di questa notizia. Sul fronte politico, oggi manifestazione a sostegno di Berlusconi davanti a Palazzo di Giustizia a Milano e oggi ancora incontro tra Berlusconi e Napolitano. Adesso le altre notizie. A cominciare da quella, e mi correggo, non parliamo di fusione ma di alleanza tra Nokia e Microsoft per competere sul mercato degli smartphone, e allora con il nostro Enrico Pagliarini per capire i dettagli di questa notizia molto importante. Enrico, buongiorno. Buongiorno Alessio, hai fatto bene a specificare che non si tratta appunto di una fusione, del resto anche l'amministratore delegato della Nokia lo ha specificato più volte. Ancora non sappiamo quando sarà sul mercato il primo smartphone Nokia con Windows Phone, ma il sistema operativo di Microsoft sarà il principale software utilizzato da Nokia e prenderà gradualmente il posto di Symbian. Questa mattina a presentare l'alleanza storica, forse potremmo dire fino a poco tempo fa impensabile, c'erano a Londra Stephen Elop, che sta ancora parlando, forse lo sentite in sottofondo, guida la società finlandese da settembre ed è un ex manager Microsoft. C'era anche Steve Ballmer, che è il numero uno dell'azienda fondata da Bill Gates. La collaborazione tra le due aziende sarà in due direzioni, coinvolgerà un intero ecosistema. Riguarderà ad esempio Office, la Xbox, Bing, che diventerà il motore di ricerca predefinito su smartphone Nokia, mentre Nokia Maps, ad esempio, verrà integrato nei servizi online di Microsoft. Perché le due aziende si mettono insieme nel mercato degli smartphone? Per combattere sostanzialmente Google e Apple, perché è pur vero che Nokia rimane ancora oggi il principale produttore di telefonini con una quota del 29%, ma in netto calo dall'anno precedente, ma è attaccata nella parte alta del mercato da Apple col suo iPhone, ma soprattutto e sempre più dagli smartphone con sistema operativo Android di Google, che nell'ultimo trimestre, lo ricordiamo, ha superato come vendite Symbian ed è quindi il sistema operativo più venduto a livello mondiale. Un'ultima nota riguarda la riorganizzazione aziendale con cambio di molti manager e una sensibile riduzione del personale a livello mondiale, anche se Elop, rispondendo ad una preoccupata giornalista finlandese, ha detto: rimaniamo fortemente radicati in Finlandia. La linea torna allo studio. Grazie ad Enrico Pagliarini. Però non tutto fila liscio, vero Deborah Rosciani? Che succede in borsa? Succede che gli operatori hanno monitorato abbastanza attentamente i dettagli di questo accordo, che sì, dal punto di vista industriale è molto importante, ma non sono stati fissati target specifici che potrebbero essere raggiunti nel 2011 anche frutto di questa intesa. Detto questo, questa mancata chiarezza porta i titoli Nokia alla borsa di Helsinki a perdere il 10%, stamattina molto movimentato tutto il comparto tecnologico in tutta Europa, a partire dai titoli STM, e quindi andiamo a vedere anche cosa succede a Piazza Affari, perché STM è il principale fornitore di chip di Nokia e quindi quando Nokia scende STM ne risente pesantemente. Il titolo accusava in avvio una perdita del 5%, adesso limita a meno 3, ma in ogni caso il bilancio è rosso. Complessivamente la seduta sui mercati oggi è negativa, sta ritornando a preoccupare l'attenzione per la condizione egiziana, Milano perde lo 0,7%. Alessio. Grazie Deborah Rosciani anche per questi aggiornamenti sulla situazione in borsa legata appunto a questa alleanza che ha movimentato un po' il mercato. Cambiamo completamente scenario, parliamo di cronaca, perché ci sono degli aggiornamenti che riguardano la vicenda delle due gemelline scomparse ormai più di 10 giorni fa. Maria Piera Cecci è qui in studio con noi. Sì, purtroppo in una lettera, l'ottava inviata all'ex moglie, Mathias Schepp dice di aver ucciso le due figlie e di volersi suicidare, come poi purtroppo sappiamo aver fatto a Cerignola il 3 febbraio. Si tratta della stessa lettera in cui Mathias scriveva che le bimbe riposavano in pace, che non avevano sofferto, ma gli investigatori hanno preferito non divulgare questo particolare, se così si può definire, fino adesso, per non scoraggiare eventuali altre testimonianze. Intanto gli investigatori si sono davvero convinti che Mathias si sia sbarazzato del navigatore satellitare e del registratore vocale che teneva sempre con sé, proprio per non far capire quali siano stati gli spostamenti, perché ha girovagato per 3 paesi per giorni. Li hanno cercati davvero dappertutto e non si ritrovano, quindi probabilmente se ne è sbarazzato. Intanto esce dal silenzio la famiglia di Mathias. Può aver fatto tutto questo, scrivono in una lettera, solo a causa di un disturbo mentale grave, della perdita della sua personalità normale. Lo abbiamo sempre conosciuto come padre amorevole e attento, così vogliamo ricordarlo. E grazie anche a te Maria Piera Ceci per questi purtroppo non positivi aggiornamenti sulla cronaca. E con la cronaca andiamo avanti, ci spostiamo però in Calabria, perché c'è stata una nuova operazione contro la 'ndrangheta. Sentiamo. Ci sono anche coloro che stavano progettando un attentato ai danni del pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Pierpaolo Bruni, tra le 26 persone arrestate nell'operazione condotta dalla polizia contro le cosche dell''Ndrangheta che fanno capo alle famiglie Vrenna, Ciampà e Bonaventura di Crotone. Il progetto dell'attentato è emerso nel corso dell'inchiesta che si chiama Idra e che il 21 gennaio scorso aveva già portato a 12 fermi. Le indagini che sono state condotte dalla squadra mobile di Crotone hanno fatto emergere che gli affiliati alla cosca Vrenna Ciampà Bonaventura avevano pedinato in più occasioni il magistrato, nonostante fosse protetto dalla scorta. Agli atti dell'inchiesta c'è anche una frase emersa dalle intercettazioni telefoniche detta da uno degli arrestati poco prima del Natale dell'anno scorso. Adesso facciamo un bel regalo a Pino. Pino sarebbe Pino Vrenna, boss della cosca, che proprio in quel periodo, tra l'altro, ha iniziato a collaborare con la giustizia facendo le prime rivelazioni al PM Bruni. Filippo Vettere, Radio 24, Sole 24 Ore, Crotone. E prima era il business delle pale eoliche, adesso è quello del fotovoltaico ad interessare proprio le cosche che puntano sulle energie rinnovabili, a quanto pare. A conclusione di una settimana in cui anche a Radio 24 ci siamo occupati molto del fotovoltaico, la rubrica Storiacci di Radio 24 va a guardare che cosa si muove dietro al business dei pannelli solari. Sentiamo. Il vento ha cambiato il suo giro e ora le mafie non vanno più a caccia di scirocco o libeccio, ma di sole. Dopo numerose inchieste sull'eolico, lasciato il business delle pale, sono le colline di vetro, calamiti di luce, ad attirare i nuovi affari delle cosche, richiamate dal luccichio dei finanziamenti pubblici. Dalla Sicilia alla Puglia, passando per Calabria e Lazio, indagini di vario tipo sono già in corso, ma c'è soprattutto un movimento sotterraneo che preoccupa gli investigatori. Le cosche siciliane stanno comprando i terreni per futuri impianti fotovoltaici. È lo stesso meccanismo che portò al sacco di Palermo, denuncia Maurizio De Lucia dalla Direzione Nazionale Antimafia. Da sempre le organizzazioni criminali hanno tentato di controllare il territorio, lo hanno fatto con vari fini, uno di questi fini è proprio la gestione diretta dei terreni su cui si devono applicare i pannelli fotovoltaici. Oltre ai rischi di infiltrazioni, è nel meccanismo di autorizzazioni e finanziamenti che si insidiano le truffe. Una ventina quelle scoperte dalla Guardia di Finanza per circa 50 milioni, il colonnello Fabrizio Martinelli. In Sicilia il sequestro principale, il colonnello Fabrizio Martinelli. 3 impianti fotovoltaici ammessi a finanziamenti pubblici per oltre 10 milioni di euro, ma mai entrati in funzione. E se in Sardegna 4 fratelli avevano provato a scappare con gli acconti di 107 imprese per costruire impianti mai effettuati, c'è chi i pannelli solari ha cominciato anche a trafficarli col Nord Africa. 4 gli arresti nel palermitano. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E allora, come detto, torniamo in Egitto, andiamo al Cairo con Alberto Negri. Alberto, noi abbiamo letto questa notizia, però sono giorni che inseguiamo la fuga di Mubarak dall'Egitto. Che succede? Beh, questa fuga dall'Egitto, tanto raccontata e mai avvenuta, potrebbe anche essere credibile. Arabia è uno dei media migliori del mondo arabo. Ricordo che ieri sera, per esempio, si era mostrata abbastanza scettica sul fatto che Mubarak annunciasse in TV le dimissioni. Quindi ieri aveva indovinato. Adesso manda fuori questa notizia affermando che il presidente potrebbe essere andato all'estero. Potrebbe essere anche credibile perché? Perché in fondo tutto quello che abbiamo visto e quello che vediamo in questi giorni è un modo per dare a Mubarak quell'onorevole uscita di scena di cui si era parlato già all'inizio di questa vicenda. E forse poi alla fine il risultato potrebbe essere... Prima o poi dovrà avvenire. Alberto, ti do subito l'aggiornamento in diretta, perché a differenza tua, che sei in mezzo alla piazza al Cairo e quindi non hai sotto occhio ovviamente le agenzie di stampa che riferiscono di questa notizia, adesso l'Arabia corregge e dice che avrebbe lasciato il Cairo e non l'Egitto. Quindi diciamo una conferma, una smentita. Ma certo, una conferma, ma dicevo che cosa è che poi può sciogliere il nodo di questa questione, lo dicevo anche stamattina in un collegamento. Invece del colpo di Stato militare è quello che risolve il colpo di Stato medicale, cioè che alla fine Mubarak, dopo aver trasferito i poteri a Omar Suleiman, si ritiri o in qualche ospedale, in qualche clinico, in qualche delle sue ville, che in qualcuna delle sue ville che ha Sharm el-Sheikh. A vita privata anche vista l'età. Grazie Alberto, ti risentiamo sicuramente più avanti. Siamo in chiusura di questa edizione di GR24. Allora ripetiamo, la notizia è che Hosni Mubarak avrebbe lasciato la capitale, il Cairo, anche se non l'Egitto, come in precedenza ha affermato. È tutto per questa edizione, vi lasciamo all'aggiornamento di borse, poi a Italia in controluce. Alessio Maurizi in studio, Roberto Scaltritti in regia, vi auguro una buona giornata. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.